La prossima canzone è sempre compresa nel nostro CD Viaggio al termine della notte. Allora, quasi 60 anni fa arrivarono i liberatori. Ora il dramma è che questi liberatori stanno ancora qua, non se ne sono più andati. Sono venuti e non sono più andati via. E cosa ci hanno lasciato? Ci hanno lasciato basi militari, ci hanno lasciato i fast food, ci hanno lasciato il loro vuoto. Hanno preso la nostra gioventù, l'hanno svuotata, l'hanno riempita di falsi miti, l'hanno frastornata con le discoteche, l'hanno bombardata con le musiche vuote, l'hanno drogata. E oggi cosa resta? Resta un sogno che non è morto 45 anni fa, 60 anni fa, nel 45. Resta un sogno che è più grande delle loro bombe. Resta un sogno che si chiama libertà. Sulle colline lungo il fiume, la rugiada del mattino, popolo indiano, una divisa, scritto il tuo cammino. Raggio di luna, ormai sei morto, e il tuo pony non ha più criniere. Tu hai aggiunto un'altra stella alla tua bandiera. Tu hai aggiunto un'altra stella alla tua bandiera. Samurai del grande impero, kamikaze del sole pari, sono arrivati e la tua terra è arsa in un istante. Hiroshima ancora piange, Nagasaki si dispera, USA è sempre sporca di sangue questa tua bandiera. USA è sempre sporca di sangue questa tua bandiera. Questo sole ti ha dato la vita, si chiama Charlie ed han deciso che per te è finita. Vietnamita sul campo di riso, il corpo falciato è un inno alla sera. USA è sempre sporca di rosso questa tua bandiera. USA è sempre sporca di rosso questa tua bandiera. Nel deserto tra gli ulivi vive un uomo dal cuore di roccia, con una keffia quel guerriero si è coperto la faccia. Il Corano contro l'oro e il coraggio di una stirpe guerriera. Tu sei sempre alta sugli oppressi questa tua bandiera. USA è sempre alta sugli oppressi questa tua bandiera. Vedi USA un gran coraggio, ma la tua forza è solo distruttrice, poi riesci sempre a mascherarla da liberatrice. E Lady USA che gran signora, ma il mondialismo è una statua di cera. USA non mi farò mai fregare dalla tua bandiera. Non ci faremo mai fregare dalla tua bandiera. Non ci faremo mai fregare dalla tua bandiera. È una voce contro vento, perché domani tu possa sapere le mie parole contro il vento. Per non poter dimenticare quei tuoi occhi ormai chiusi al sole, dietro le sbarre tra le catene. Tra le catene del sistema, tu felice di stringerti a me. colpi, credendoti finito il confine. Mentre tu stringendo i denti dalla galera in cui tu fossi incentrato, mi darti al vento, al sole, al mondo. A Franco Preda. Stringete, stringete pure, ma mai noi riuscirete a pensare, pensate per conservare il mio ideale. Stringete, stringete pure, ma mai noi riuscirete a pensare, pensate per conservare il mio ideale. Stringete, stringete pure, riuscirete a mettere le catene per fermare il mio ideale.